Vendo tutto di Matteo Caccia. Perché quando finisce una storia è un po' come quando da bambini finiamo la nostra fetta di torta. Ce ne rimaniamo lì imbambolati sperando che ce ne sia un altro boccone nascosto chissà dove in giro per la casa. Il bello delle storie è proprio questo. Hanno il sapore delle torte e ci fanno sentire bambini. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un computer portatile. È una splendida giornata di fine giugno, oggi sono le 16.07, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, nella sera del sole 24 ore ci sono i soliti 17 gradi, quindi dentro si sta col maglioncino, fuori invece a Milano ce ne sono 30, c'è la bella caldazza, quella di fine giugno, primi di luglio, un'afa meravigliosa, ma se siete da questa parte venitevi a fare una passeggiata magari verso le 7 del pomeriggio, quando comincia a calare l'arsura, quando un po' gli happy hour cominciano a... no? Ad avere i loro tavolini all'aperto, perché Milano non è come dicono, anzi è esattamente il contrario. 800240024 3492386666, questo è il terz'ultimo giorno di questo programma, quindi ma andiamo in vacca tutti, ma parliamo d'altro. Fagin, Bonini, tutti dentro, pure Paolino. Ecco, volevo solo fare una comunicazione di servizio, sono arrivati dei messaggi su Facebook allarmatissimi. Laura Fagin è guarita, il suo occhio è tornato piatto e aperto, mentre ieri era gonfio come un melone e chiuso come una casa. E invece no, oggi è magnifica come sempre. Oggi però non si parla tanto di Laura Fagin, però si parla di Facebook, si parla di quello che diciamo ormai è lo strumento su cui arrivano per lo più il maggior numero dei messaggi che arrivano a questo programma. Poi, tra l'altro, come sempre succede, no? Oltre agli sms, alle telefonate, alle mail, niente. Sarà che probabilmente non do neanche la mail. Vendo tutto, @radio24.it. Anzi, se mi abbassi lo faccio come lo speaker di Radio 24. Vendo tutto, @radio24.it. Insomma, quella è la mail, però tutti scrivono ormai su Facebook, perché Facebook è, leggevo l'altro giorno, forse la cosa per cui si usa di più il computer oggi dopo i messaggi, le pagine di scrittura e quelle di calcolo. E prima volevamo, parlandone in redazione con Tiziano e Laura, volevamo proprio fare così, chiedere a voi come usavate Facebook, però... alla fine è la solita menata, no? Cioè, nel senso che tutti hanno un profilo e tutti quanti ne parlano. E però riflettevamo sul fatto che di fatto andare a curiosare... Allora, ok, facciamo così, io lo ammetto, va bene? È la terz'ultima puntata, è l'ultimo giorno di giugno, guarda, tolgo anche l'orologio così mi sento più libero. Io lo ammetto, io ragazzi, c'ho 2564 amici, una roba del genere, io mi faccio ma serenamente i cazzi vostri tutti i giorni, cioè proprio io entro nei vostri profili, guardo dove siete andati in vacanza, guardo che torta avete mangiato ieri, è proprio una roba che ha quel fascino morboso lì che è, e qui arriviamo al dunque, ne parlavamo prima, che è come quando vai a curiosare nei cassetti dei tuoi amici. Allora, facciamo subito, non si parla delle fidanzate, di marito e mogli, perché quello che si scopre su fidanzati, fidanzate, mariti e mogli, lo sappiamo già cosa succede. Però, quando siete ospiti da un amico, no? Lui vi dà una stanza, oppure vi fa dormire nel soggiorno sul divano letto, poi buonanotte, buonanotte. Io adesso non mi ospiterà mai più nessuno, probabilmente. Però un po' ce l'ho sta roba, che mi viene da curiosare nei cassetti. Perché... è proprio esattamente come Facebook. Cioè su Facebook tu fai vedere la storia che vuoi tu alla gente, no? Cioè carichi delle foto o carichi delle robe che tu scrivi, che è quello che tu vuoi vedere che sei, vuoi far vedere che sei. Però nel cassetto in soggiorno uno le robe ce le nasconde per lo più, giusto? E quindi io vorrei che voi oggi lo ammetteste. 800240024 349 238 6666. Che cosa avete trovato in quel cassetto in cui avete curiosato? Ripeto, non sto parlando della moglie o del marito, anche perché non si nascondono nei cassetti le cose. Però, diciamo, prima si è aperto un macro capitolo sul cassetto dei genitori. Allora, il cassetto... non andate a vedere i cassetti dei comodini o del comò dei vostri genitori. Vi prego, non fatelo. Non lo fate. Perché i genitori... probabilmente voi non ci crederete, e adesso ve lo dico io, sono delle persone, e anche se hanno 50 o 60 anni, ok? Sono delle persone, per cui non andate a guardare in quei cassetti, Però magari avete guardato nel cassetto che sta nell'armadio di vostro fratello, ci avete trovato un abito che non immaginavate. Oppure banalmente nel cassetto del vostro amico ci avete guardato e ci avete trovato un libro di Moccia che lui nascondeva perché si vergognava di averlo letto. Prima una ragazza che si chiama Yeye, secondo me è un nome finto, sempre su Facebook, dice che lei va a curiosare nell'armadietto del bagno, perché anche lì effettivamente si trovano, al di là dei tranquillanti, ma sai che novità, però si trovano cose interessanti. Insomma, ammettetelo, 800240024 3492386. Avete guardato in un cassetto di qualcuno, una persona cara, un amico o un vostro genitore, e lo raccontate. Guardate, se volete non dico il vostro nome, eh? Solito nome fasullo, Paolo per tutti. 3492386666 oppure 800240024. Oggi non si capisce bene come, ma è collegato, avendo un computer portatile, è il secondo, ma questa è l'ultima volta. Per vederlo, radio24.it. Per sentire la sua storia, eccoci qui. Il MacBook Nero. MacBook Nero, schermo 13 pollici. Processore dual core Intel Core Duo da 2 GHz. Memoria da 512 MB a 667 MHz. Storage disco da 80 GB. Wi-Fi AirPort Extreme Networking, una porta FireWire 400, due porte USB 2 High Speed, peso 2,36 kg. Ottimo come strumento di lavoro o di svago, per lavorare o fare finta di farlo. Valore commerciale 350 euro, base d'asta avendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ieri ho finito di scrivere le puntate di questo programma. Ho preparato l'ultima trasmissione, cioè quella che va in onda venerdì, e quindi oggi posso vendere il mio secondo computer. A marzo ho venduto un PowerBook G4 da 12 pollici. Povero, lui era vecchio e stanco. Io c'ero pure affezionato, però ormai l'avevo strizzato come una spugna. Lo usavo per lo più per la musica, per le foto, per i film. Una specie di minuscolo archivio gigante. Però dovevo continuare a scrivere la storia delle cose che ho posseduto. E quindi questo computer me lo sono tenuto stretto fino ad oggi. È più giovane dell'altro, è più veloce, più leggero ed è nero. E poi è tenuto molto meglio, lo schermo non ha difetti, non ha graffi, non ha ammaccature. Solo i tasti, a guardarli bene, sono un po' consumati. Quello però è pure normale, nel senso che alla fine, oltre al mouse, i tasti sono praticamente l'unica cosa che si tocca di un computer. Che poi è strano, perché a guardarli bene non sono tutti usurati allo stesso modo, eh. Lo spazio, ad esempio, la sbarra spaziatrice. Ecco, quello è quello più liscio di tutti. Sembra addirittura che sia stato pigiato sempre dalla stessa parte, probabilmente con lo stesso dito, e ha creato un impercettibile avvallamento. La A e la M poi sono le lettere più consumate, seguite dalla R, dalla E, dalla T e poi dal tasto invio. Il mousepad è più levigato al centro per via dello strisciare dell'indice, al tatto è quasi morbido. Se avvicino il naso alla tastiera posso sentire l'odore di nuovo, quello che i primi giorni era fortissimo, e quando lo aprivo riempivo tutta la stanza. Ora è quasi impercettibile, o forse sono un ricordo, anche perché sono passati 4 anni da quando l'ho comprato. Ho letto che in un anno le lettere della tastiera di un computer vengono schiacciate 1.350.000 volte. Nel mio caso quindi ho digitato più di 5 milioni di lettere. Chissà quante boiate ho scritto. E comunque questo oggetto l'ho usato, e quindi alla fine è diventato mio. Anzi no, è diventato mio proprio perché l'ho usato. Io ho questo debole per le cose usate. Cioè, non che compri solo oggetti di seconda mano. No, non intendo quello. Voglio dire che il tentativo di mantenere nel tempo un oggetto come se fosse nuovo, tipo mettere la plastica sui materassi, non togliere il velino, quello che sta sul display del cellulare, ecco, quella è una roba che detesto. Cioè, è come se il tempo che passa fosse una vergogna, una specie di onta da cancellare. Le cose diventano nostre quando le consumiamo. E se smettiamo di farlo, è giusto che le abbandoniamo oppure che le lasciamo a qualcun altro. Il concetto di proprietà, per me, è legato proprio all'uso di una cosa e non al detenerne i diritti. Che so, casa mia è mia quando ci vivo io, però se ci sta un amico diventa la sua. Non perché è amico mio, ma perché la segna con i suoi piedi, con l'aria che respira. Ecco che cosa rende un oggetto utile. Il fatto che chi lo possiede ci lascia sopra delle tracce e facendolo lo usa fino a consumarlo. Changes. change me, but I can't trace time. Insomma, questo computer è mio perché ci ho scritto sopra. E poi perché grazie a lui ho conosciuto un sacco di persone. Pare che i computer siano utilizzati solo per il 25% del loro potenziale. E che questo 25% sia fondamentalmente leggere le mail, guardare video, guardare le foto e navigare in internet. E per navigare in internet, se si esclude la lettura di qualche giornale online, si intende soprattutto social network. Io non credo che i social network, Facebook via per intenderci, non credo che abbiano come unico fine quello di fare sesso con degli sconosciuti. O meglio, per molti è così, ma non per tutti. Penso che il fatto di incontrare persone in un luogo che non esiste sia una figata, perché puoi dire cose che non hai il coraggio di dire di persona, puoi prendere tempo, puoi sparire se è il caso di farlo, puoi inventarti storie su di te o su persone che conosci, puoi addirittura creare persone che non esistono nella realtà e che invece lì hanno un nome, una professione, una vita, degli amici. La cosa più imbarazzante eppure più divertente però è curiosare nella vita delle persone. O meglio, in quello che le persone ti fanno credere essere la loro vita. Per me guardare su Facebook le foto dell'ultima vacanza di una persona che non conosco o che conosco appena, vedere con chi era, cosa mangiava, decifrare dalla sua faccia se si stava divertendo oppure no. Ecco, per me quella roba lì ha lo stesso fascino morboso e anche un po' illecito di aprire un cassetto della scrivania dell'amico che ti ospita. È un po' come approfittarsi della fiducia di qualcuno che ti ha aperto la porta, in fondo, no? Ecco perché penso che alla fine la cosa che non mi piace dei social network è la cosa che mi piace. Che puoi dire cose che di persona non avresti il coraggio di dire, che puoi scappare se è il caso di farlo, e puoi curiosare nella vita delle persone. E alla fine magari scoprire cose che era meglio non sapere. Mi ero ripromesso di non farlo. Sapevo che era sbagliato. Non avrebbe portato alcun bene. E invece, alla fine, l'ho fatto. Ho scritto il nome di Giulia. Il problema è che è troppo facile. Cioè, appena apri la home page di Facebook, c'è questo spazio bianco con sottoscritto Trova amici. E basta scrivere un nome e un cognome per sapere che fine ha fatto quella persona. E io l'ho fatto. Ho scritto il nome di Giulia. È apparso un elenco di persone con lo stesso nome, ma la mia attenzione è andata subito sulla sua foto. Quella che l'avevo scattato io, in cui sorrideva mentre eravamo su una spiaggia chissà dove. È inutile dire che le foto erano visibili solo agli amici e io non avevo intenzione di diventare amico suo. La bacheca invece no, quella era aperta a tutti. Ho scoperto che sta bene, che è stata a fare un aperitivo in un posto di mare, che ha trovato un altro lavoro e che da quello che scrive è pure diventata simpatica la stronza. Ho visto che ha i capelli più corti e che ha preso una macchina rossa, che ha 456 amici e che è fidanzata. Questo è quello che ho visto, o che lei fa vedere. Il resto non lo so, perché alla fine il bello dei social network è che si fa vedere solo il meglio. Il resto ce lo teniamo per noi. E per me, con questo computer, io ho visto abbastanza. E quindi lo vendo. Il suo valore è di 350 euro, la base d'asta, sono 99 centesimi. Se voi avete scoperto qualcosa in un cassetto che era meglio non scoprire, 800 0024 0024. Hey, it says that Link's status has changed. He's playing the recorder. Matteo, prossimo anno che trasmissione fai? Compro tutto? Buona questa, Gabriele! 800 24 0024 349 238 6666. Io curioso negli armadietti dei bagni, perché quando sono lì sono sicura che nessuno entra e mi scopre. Rossana di Varese, a 10 anni più o meno io e i genitori li ho tanati. Nei cassetti dello studio di mio padre cosa ho trovato? Il pornazzo! Fu uno shock che ha alimentato la mia curiosità. Davide, io vado oltre e leggo il labiale. Ah, nel senso che guarda gli altri e non guarda nei cassetti. il migliore però è questo. Avevo 12 anni, trovati condom, credo nel cassetto dei genitori. Alla domanda cosa sono, la risposta fu gavettoni. Ne lanciamo dal primo piano, il più grande della mia vita in effetti. Ale da Senigallia, 800240024. Andiamo a sentire invece cosa ci racconta Giovanni da Cesano. Pronto Giovanni? Pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Insomma, sono un po' emozionato perché pensavo francamente di non riuscire a ottenere la linea e infatti quando ho sentito il libro mi sono trovato un po' sorpreso, però sono state carine le ragazze, Giovanni? Sì, carinissime, gentilissime. Altrimenti ci mettiamo un attimo proprio. Assolutamente. Io me ne vado io tra due giorni, sai cosa, mi ci metto un attimo. Giovanni, senti, raccontami invece in quale cassetto hai guardato innanzitutto? Allora io grosso modo avrò avuto un 11 anni alle medie, generalmente il pomeriggio eri a casa, sono andato a curiosare nel cassettino di mio papà nel comodino e aprendolo, chissà per che ragione, poi cercando di capire che cosa cercassi, sì, ho trovato una penna di quelle che si usavano negli anni 70 che reclinandole vestivano e spogliavano la donnina con l'inchiostro e ricordo che lì rimasi colpito, ma semplicemente per il fatto che non collegavo mio padre a questo. E tutte le volte che loro uscivano io cercavo di andare là e bloccare questa donnina inclinata con quei vestiti. Ma Giovanni, scusa, gliel'hai mai chiesto, cioè gliel'hai mai detto che l'hai trovata sta penna? No. E gli hai mai chiesto perché ce l'aveva? No, questo assolutamente no. Ma soprattutto dove l'ha trovata? Perché io non le trovo in giro queste pennine. Penso che adesso sia anche più difficile, ma all'epoca, negli anni 70, a cavallo tra il 70 e l'80, erano già abbastanza trasgressive, diciamo. Senti, quanti anni avevi tu, Giovanni? E allora, 64 sono io, avrò avuto 11 anni. Senti, poi non so da quanto tempo lui potesse averla lì, ecco. Giovanni, tu hai qualcosa nascosto nel cassetto che non faresti vedere a nessuno? Detto tra di noi, tanto guarda, quest'ora non ci ascolta nessuno. Sì, assolutamente sì. Tipo? Lo dico. Vedi tu. Ho un calco del mio palato superiore e inferiore prima che mi sistemassero la dentazione nella parte superiore di destra e francamente sì, non lo faccio vedere a nessuno perché non mi piace ed è assolutamente nascosto e nemmeno mio figlio sa cosa ci sia. Vedi, dopo il cassetto. Quando la patologia si nasconde nel palato, oserei dire, perché sinceramente non mi sembra nulla di... Fai una cosa Giovanni, è arrivato il momento, ormai ci stiamo liberando di tutto, mancando giorni alla fine. Gli fai una foto e la carichi sul mio profilo Facebook. Ma io la foto gliela faccio assolutamente. Caricarla sul profilo Facebook è una cosa che devo domandare a mio figlio. Va bene, ok. Così, perfetto, così prendiamo due piccioni con una fava. Grazie mille, Giovanni. Ciao, Matteo. Ciao, buona giornata, stai bene, ciao. Andiamo da Cesarina, direi. Pronto? Ma Cesarina, la nostra Cesarina? Cesarina? Sì, la vostra. Come stai, Matteo? Cesarina? Non potevamo finire il programma prima senza sentirti. Grazie. Senti, ti volevo prima di tutto ringraziare per quest'anno meraviglioso ti ringrazio. Che ci hai fatto passare. Bene. E poi ti volevo raccontare questa avventura che ero bambina di 4-5 anni, sì? La mia sorellina era piccola e io chissà perché, mia mamma ci portava sempre dai nonni come fanno tutti, e mi hanno lasciato da sola nella camerona grossa dei nonni. Cosa hai trovato? E io mi sono arrampicata per aprire il sportello alto. Sto già tremando io. Dell'armadio. Sì. E ho trovato dei bambolotti nuovi ancora con tutte le... Sono rimasta senza fiato, chiuso e non ho detto niente a nessuno. Poi a Natale mi vedo quei bambolotti con i doni di Gesù Bambino. Sospiro di sollievo. Oh, capito. Erano i regali di Natale, Cesarina. No, no, non era sollievo, è stata delusione. Perché Gesù Bambino. No, no, il sospiro di sollievo era il mio. Però ho capito, insomma, è stato un attimo di... Quanti anni avevi, Cesarina? Quando è che hai perso quindi la tua innocenza? Che anno era? Ecco, ma avrò avuto 5 anni, non so, 6 anni, nemmeno. Insomma, abbastanza presto. Ricordiamo quanti ne hai, Cesarina, così tutti sanno che si può arrivare a questa età come se ne avessi 20. Tu ne hai 70. Io adesso ne ho compiuti il giorno fa il 78esimo. Cesarina, allora guarda, ti faccio gli auguri da parte di tutta la redazione e saluto te un po' come salutassi tutti gli ascoltatori del programma. Grazie Matteo. Stai bene, riguardati. Grazie, buona estate. Ciao Cesarina. Buona estate, ciao. Abbiamo un'altra telefonata, giusto? Ok, non so se possiamo andare in onda. Pronto? Sì, pronto? Ciao, buongiorno. Qua mi scrivono che sei in anonimato, quindi io ti chiamo Paolo così per... Va bene. Per non sapere leggere e scrivere. Siamo da Bologna. Ok, cos'è successo, Paolo? Niente, vi ho mandato il messaggio un po' col mio aneddoto, ma si vede che vi è piaciuto particolarmente. Si vede che la faggina perché... l'ha scovato tra tutti gli altri. Mi ha richiamato. Cioè? Niente, la storia è un po' questa. Qualche giorno fa io abito con i miei genitori e le mie due sorelle, ho 25 anni. Sì. E quindi mi serviva del nastro adesivo nel pomeriggio in casa, per cui vado a cercare chiaramente nella scrivania di mia sorella maggiore. Sì. E niente, frugo un po' in mezzo alle sue cose e trovo... una pallottola avvolta dentro del cellophane. Va bene, ok. Cui, diciamo che possiamo immaginarci. Tu cosa ne hai fatto? L'hai riposta nel cassetto perché non si fa, giusto? Ovviamente no. Con un grande sorriso ho aperto questo pacchettino, quindi ho visto che era anche di una certa qualità, per cui ho sfruttato l'occasione. Quindi diciamo, tu non ti sei stupito di niente, già conoscevi il materiale, ti sei stupito semplicemente che magari tua sorella la usasse. Certamente. E poi l'hai fatto una bella ramanzina. Io pensavo di essere la pecora nera della famiglia, e invece c'è una pecora nera dentro ognuno di noi. Grazie mille, ciao, alla prossima. Niente, grazie. Ciao, stai bene. Ho aperto la scatola top secret appoggiata sulla scrivania di mio fratello. Aia, ah no. Al suo interno le confessioni più intime fatte alla sua fidanzata, mai scoperta. Ciao Marta, grazie a lei, grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Il computer come al solito è sul sito. Domani invece vendo il manoscritto con tutte le puntate di questo programma. Voi se avete degli amici su Facebook cercate di incontrarli, che alla fine vedersi dal vivo è sempre vedersi dal vivo. Love, love, love, wherever you get